Tintarella di luna, papaya, papaya. Tintarella come un latte, papaya, papaya. Tutta notte sopra il tetto, papaya, papaya. Sopra il tetto come i gatti, papaya, papaya. E se c'è la luna piena, tu diventi candida. Tintarella di luna, papaya, papaya. Tintarella come un latte, papaya, papaya. E fa bianca la tua pelle, papaya, papaya. Ti fa bella fra le belle, papaya, papaya. E se c'è la luna piena, tu diventi candida. Baciano te al mondo nessuna candida come te. E tintarella di luna, papaya, papaya. Tintarella come un latte, papaya, papaya. Tutta notte sopra il tetto, papaya, papaya. Sopra il tetto come i gatti, papaya, papaya. E se c'è la luna piena, tu diventi candida. Baciano te al mondo nessuna candida come te. E tintarella di luna, papaya, papaya. Tintarella come un latte, papaya, papaya. Tutta notte sopra il tetto, papaya, papaya. Sopra il tetto come i gatti, papaya, papaya. E se c'è la luna piena, tu diventi candida. E se c'è la luna piena, tu diventi candida. E se c'è la luna piena, tu diventi candida.